compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nel Quebec con Giorgio Conte. Nel 1534 il re di Francia Francesco I incarica Jacques Cartier di guidare due navi per scoprire un passaggio a ovest che conduca in Asia e per colonizzare nuove terre, o meglio, per trovare, parole del re, certe isole terre dove si dice ci siano grandi quantità di oro e altre ricchezze. È solo il primo dei viaggi che porterà l'esploratore francese in Canada. Tutto ha inizio nel Golfo del San Lorenzo, fiume da lui scoperto, e che sarà molto importante per la creazione di un impero francese. Tutto ha quindi inizio nel Quebec. Il Quebec è una provincia del Canada, la più estesa per superficie e la seconda più popolosa della Confederazione dopo l'Ontario. Ha una popolazione di circa 8 milioni su un territorio vastissimo, che è circa 7 volte le dimensioni dell'Italia e 3 volte e mezza quelle della Francia. Il Quebec vanta un'eccezionale ricchezza di ambienti naturali, una fertile pianura fluviale tra lo scudo canadese a nord e la catena montuosa degli Appalachi a sud, e vaste distese di foreste, di taiga e di tundra, che si spartiscono oltre un milione di laghi e migliaia di fiumi, per un totale di almeno 180.000 km quadrati di superficie ricoperti d'acqua dolce. In Quebec si evidenziano tre tipi di clima: continentale umido a sud del 50° parallelo, subartico tra il 50° e il 58° parallelo, artico oltre il 58°, e corrispondono rispettivamente alle aree a prevalenza di foreste, di taiga e di tundra. Oggi ci facciamo portare in Quebec da un esploratore molto particolare che è partito alla volta del Canada non per cercare oro o metalli preziosi, anche se è tornato a casa con un bottino. Lui è Giorgio Conte. Perché hai deciso di farmi da compagno di viaggio proprio in Quebec? Allora, il Quebec perché io ho avuto l'occasione di praticarlo come musicista, cantautore. Avevo un disco in distribuzione all'Audiogramma, che è una casa discografica importante di Montreal, e la prima volta ho scoperto un paese strepitoso. Io poi sono uno che sta in campagna, quindi la natura, gli animali, lì ce n'è da andare a nozze. Sì, Giorgio fa il cantante pur essendo avvocato. Deve essere una cosa di famiglia, perché anche al fratello è capitata la stessa cosa. Oggi è con me però in veste di autore. Infatti è appena uscito il suo libro intitolato Un trattore arancio. Io vivo in quel di Asti, città del vino. Vivo da una trentina d'anni in campagna, praticamente a 4 km dal centro di Asti, quindi posso andare anche a piedi ogni tanto, farmi una passeggiata. Ed è un piccolo paradiso, lontano dalla città ma anche vicino alla città. Vivo in un borgo che si chiama Via Tosto. Quando dico il mio indirizzo scrivono tutti via staccato Tosto, ma non è così, è una località che si chiama Via Tosto tutto attaccato, perché si narra che nel 1300 ci fosse una peste bubbonica scoppiata nei dintorni, e allora i pellegrini che ignari passavano lungo quelle strade, e i locali avevano messo dei cartelli, degli inviti ad andare via in fretta, via tosto, cioè, perché qui non si scherza. E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno di un'ombra, l'ombra di un altro viaggio. Perché i ricordi cambiano come cambia la pelle, tu ne avrai di nuovi e luminosi come stelle. Comunque vada, guardami dentro gli occhi. Via Tosto, piccolo borgo vicino ad Asti, è dove inizia la nostra avventura a fianco di Giorgio Conte. Prima però lui ci tiene a presentarsi facendoci entrare nel suo paesino e poi nella sua famiglia. Questo è il borgo dove vivo io, c'è una chiesetta romanica meta di pellegrinaggi, vivo con tre cani, un gatto, avevo un cavallo ma poi l'ho alimentato troppo, è scoppiato di salute. Vivo con una moglie intelligente che mi lascia fare la vita d'artista, oltretutto lei lavora, fa l'insegnante di inglese, per cui non ci sono problemi, un plafond non c'è sempre. Ho due figli, Lucilla e Tommaso. Lucilla adesso è a Ferrara dove fa un dottorato, finisce un dottorato di diritto costituzionale. Tommaso fa il praticante avvocato, quindi la tradizione di famiglia più o meno continua. Una tradizione che risiede nella capacità di raccontare storie, siano esse in tribunale o su un palco, ma sempre di storie si tratta. E ora che abbiamo fatto le presentazioni, trasferiamoci in Quebec. Già la partenza riserva una bella sorpresa a Giorgio. È stata una bellissima avventura. Io non mi aspettavo che ci fosse questo riscontro di entusiasmo per un disco che il mio produttore di allora, uno svizzero che si chiama, come cacchio si chiama? Ah sì, Andrea Netzer. Andrea Netzer aveva mandato, così come si manda una bottiglia nell'oceano, e il messaggio è arrivato. Dunque partiamo e andiamo in Quebec. Io e i miei musicisti da Parigi, fino da Via Tosto a Parigi si può ancora ragionare. A Parigi, aeroporto speciale dove ci sono tutti i jumbo, quelli che partono per le viaggi intercontinentali, c'era un overbooking, mi pare, si dica così, per cui all'ultimo momento mi hanno passato dalla categoria turistica a quella business, e già lì è cominciato tutto un mondo, perché e ti danno le calze per toglierti le scarpe, stai libero, tranquillo, sei su una sedia tipo dentista, ma non c'è il dentista, ci sono altre piacevoli situazioni, tipo un maître d'hôtel di chissà quante stelle che ti propone un pranzo alla francese pantagruelico. Via Tosto, Quebec, passando per Parigi. Cose che succedono solo a pochi. È come se il destino avesse deciso di preparare l'animo di Giorgio all'accoglienza di un paese strepitoso, come l'ha definito lui. Un paese che assomiglia per natura e campagna al borgo vicino ad Asti dove lui abita e che nella gente ha trovato delle buone orecchie per la sua musica. In fondo è proprio dal Quebec che arrivano grandi cantanti famosi. Qui con la musica c'è una certa dimestichezza. Una su tutte, Céline Dion. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nel Quebec con Giorgio Conte. Oggi siamo in Canada. Con noi c'è Giorgio Conte, avvocato come il fratello che come lui alle aule di tribunale ha preferito i concerti per far sentire la sua voce. Siamo partiti da Via Tosto, piccolo borgo vicino ad Asti dove Giorgio vive. Ci ha tenuto a presentarsi per bene prima di portarci con lui nel Grande Nord, dove è stato spinto dal suo discografico per la promozione di un disco. Si sa, il Canada con la musica ha un buonissimo rapporto, visto anche i numerosi cantanti che ha sfornato. E anche per il nostro compagno di viaggio ci saranno delle belle sorprese al riguardo. Ma siamo ancora a Parigi, dove Giorgio si sta per imbarcare su un jumbo. All'improvviso, per overbooking, gli cambiano il biglietto e lo mettono in business class. Già da lì ha inizio la meraviglia. Insomma, già la partenza era interessante. Sono circa 6.000 chilometri. Una certa apprensione quando sul display arriva siamo a chissà quanti piedi, temperatura esterna meno 60 gradi, dico vabbè, coraggio, finché funziona la pressostatico andiamo tutti bene. Arrivi a Quebec, cioè arrivi a Montreal, mi pare fosse d'inverno allora, e atterriamo sulla neve proprio, e già lì cominci a farti un'idea, dice, fosse in Italia sarebbe tutto chiuso, niente, lì vanno sempre, sarà la loro anima da pioniere, da... Per cui già quella è stata una prima sensazione, un po' di paura ma anche di sorpresa per questo saper vivere in situazioni climatiche particolarmente ostili. Lì ho vissuto anche un fenomeno che là temono molto, che è il verglas. Mi pare che arriva la pioggia, ma gela prima di diventare neve, questo ghiaccio si ferma e devasta tutto, dalle linee telefoniche, alle linee elettriche, eccetera, eccetera. E però anche lì ce la fanno, insomma. Nevica tutti i giorni, ma le strade sono sempre pulite, le catene non so anche cosa sono, viaggiano tranquillamente. Neve, ghiaccio, verglas. Per essere precisi, il termine italiano per il francese verglas è gelicidio. Solo a pronunciarlo fa paura. Nonostante questa pioggia che gela a contatto col terreno coprendo tutto, da non confondersi né con la brina né con una gelata, Giorgio da queste parti ci torna sempre volentieri. Molto volentieri, certo, perché ho trovato un pubblico particolarmente interessante. I canadesi della zona francofona sono un po' cowboy e un po' francesi, quindi già il fatto di scrivere sulla loro targa "Je me souviens" vuol dire che io mi ricordo di avere origini francesi. Sì, il Quebec è una regione francofona e insieme al Nuovo Brunswick è l'unica area in cui il francese è lingua ufficiale. Come sottolinea anche Giorgio, sono un po' cowboy e un po' francesi, sono un perfetto punto d'incontro tra la cultura europea e quella americana. Oltre al motto ufficiale "Je me souviens", basti pensare che il simbolo della regione è il fiordaliso, che ricorda la corona francese, rappresentato in bianco su fondo blu, proprio come nella bandiera. Je suis fils de marin qui traversa la mer. Je suis fils de soldat qui déteste la guerre. Je suis fils de forçat, criminel évadé, et fils de fille du roi, trop pauvre à marier. Fils de coureur des bois et de contrebandier, enfant de cette nation et fils d'aventurier, métis et sans mêler, bien qu'on me l'ait caché, c'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté. Mentre Giorgio definisce i quebecchesi metà cowboy e metà francesi, penso alla serie televisiva How I Met Your Mother, sitcom americana ambientata a New York, ma dove una delle protagoniste è canadese. E sorrido pensando a quanto i canadesi vengano presi in giro dagli americani, cioè da quei cowboy che un po' gli somigliano. Visto lo spirito col quale Conte mi sta conducendo per queste terre, mi permetto di sorridere con lui su certi luoghi comuni. Prendetevi pure gioco del Grande Nord, il Canada è il paese più bello del mondo. Già. Ehi, piccolo esperimento. Stati Uniti! Stati Uniti! Stati Uniti! Stati Uniti! Ok, d'accordo, però questo non dimostra un bel niente, lo sai? La gente è pronta a gridare qualunque cosa. Canada! Canada! Canada, bene, sappiamo che non è vero. Gamberetti! Gamberetti! Gamberetti! Gamberetti! Gamberetti! Ehi, hey, che forza, Gamberetti! Ma torniamo a noi. Voglio farmi raccontare com'è stato l'impatto con il Quebec, la provincia più estesa del Canada, che da sola racchiude distese di tundra artica spazzate dai venti, fitte e selvagge foreste boreali, fertili terreni agricoli, dune di sabbia, fiordi, cime montuose e splendide città. Partiamo proprio da queste. Prima città, Montréal, è una città dove si capisce che c'è stata proprio una migrazione di tanti popoli, perché ci sono tutti i quartieri possibili, cinese, indiano, italiano, c'è un ristorante, le Piemonte, dico qui, siamo a posto. È una città americana, diciamo, c'ha... pur essendo francese il substrato umano, grattacieli, c'è un fiume, il Saint Laurent, che la fa da padrone, insomma, ci sono nomi e cioè, cognomi che ricordano le professioni dei primi pionieri. Pelletier sono quelli che lavoravano le pelli, Cloutier sono i chiodo, che sono quelli che facevano i carpentieri, insomma. Ci sono cose strane, ci sono delle parate di giubbe rosse, ci sono delle facce che capisci che sono indiani o semi-indiani, pelle rossa. Ci sono dei monumenti strani dove c'è il conquistatore del non mi ricordo più se forse del Quebec, proprio di questa zona del Saint Laurent, con tutti gli indiani sotto che tirano le frecce. Io mi sono detto: ma non vi vergognate a far vedere queste cose? Ma avete sterminato un popolo, avete la legge del più forte. Ci sarebbe troppo da dire su quanto i colonizzatori abbiano fatto al tempo delle conquiste. Limitiamoci a constatare che in Quebec vivono ancora 11 nazioni native, distinte per lingua e per cultura, ripartite in una cinquantina di villaggi disseminati su un territorio di oltre 1.600.000 chilometri quadrati. Un popolo davvero vario, quindi, che, come prosegue Giorgio, ha fuso insieme il meglio dei francesi e degli americani. Si diverte molto, grida forte come non un francese ma come un cowboy, ma nello stesso tempo ha la cura della formalità, del garbo, eccetera, eccetera. Io sono arrivato lì non tanto come un cantante all'italiana, ma come uno che faceva capire che la canzone francese gli piaceva molto, quindi loro hanno ritrovato in me uno che omaggiava i loro grandi artisti, che ancora là sono molto tenuti in considerazione, e quindi ho trovato subito un consenso illimitato. La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic. Glou glou glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding ding dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante loving bloom. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nel Quebec con Giorgio Conte. Giorgio Conte mi sta facendo scoprire il Quebec, l'insediamento europeo più antico esistente in Canada. Fu l'esploratore francese Jacques Cartier nel 1534 il primo ad arrivare da queste parti, anche se è solo nel 1608 che si fa cominciare la sua storia, quando arriva un altro esploratore francese, Samuel de Champlain. Giorgio è il nostro esploratore piemontese col quale stiamo cercando di scoprire questa terra. Abbiamo già visitato una città, Montreal o Montréal, eppure è la natura spesso la vera protagonista. Canada, questa zona qua io l'ho praticata anche d'estate, c'è un festival d'été a Quebec dove non ti sembra quasi di essere in Canada, c'è proprio una bella primavera, una mezza estate, ci sono carrozze con i cavalli, ci sono dehors all'aperto, ci sono spider che forse da noi sarebbe bene tenere chiusi, invece loro vanno, come vedono un pezzo di sole si buttano, e poi ho vissuto anche la parte autunnale, che è quella più eclatante, nel senso che è proprio una festa per loro, far vedere che le loro foreste si ammantano di colori strepitosi. Questo, la foglia d'acero, tu sai che è il simbolo sulla bandiera canadese, sono queste immense foreste che assumono colori dal giallo all'oro, il rosso, ci sono parchi meravigliosi che siamo anche riusciti ad annusare un po' da vicino, ci sono personaggi interessanti. Io ho conosciuto un contrabbassista che aveva questo amore sconfinato per il suo la sua terra, quindi si faceva portare con un aeroplanino in qualche parco, poi se ne andava e ci vediamo fra 3 mesi dall'altra parte, insomma, cose da avventura che galvanizzano. Insomma. Ci sono 27 parchi nazionali e 1 milione di laghi e corsi d'acqua. Insomma, già questo basta per sentirsi galvanizzati dalla natura, no? Chiedo a Giorgio se ricorda un episodio divertente che l'ha visto protagonista in mezzo a tanta magnificenza. Ricordo che all'Isle de la Madeleine, che sono delle isolotte verso l'Alaska, se mi pare di capire, anche qui è contrasto tra il grande aereo che mi ha portato lì e questo piccolo aereo che invece mi ha fatto sorvolare a bassissima quota un mare nero e anche pauroso. Un equipaggio un po' da film, quando abbiamo visto che la compagnia Prince Albert ci accoglieva sul suo, era una specie di aeroplano di Topolino, cioè, quelli che ci mettono un po' a, sembra che si diano delle spinte. Allora, l'equipaggio era un po' inquietante, perché il comandante è un assistente. Il comandante era barba incolta, un leggero alito alcolico, una borraccetta nel taschino, rideva come se fosse quasi brillo. Questa cosa mi ha francamente preoccupato un po', però dico, ma no, fa parte del folklore locale. E, insomma, io e i miei amici musicisti l'abbiamo presa a sorridere, al punto che il mio percussionista di allora, Peo Mazza, ha fatto addirittura la hostess portando i panini in giro. Questo aeroplanino alla fine è riuscito ad atterrare serenamente in questo piccolissimo aeroporto, da lì si parte per andare a visitare le Isle de la Madeleine, che sono delle isolotti molto pittoreschi, probabilmente per il contrasto al grigiore del clima, eccetera, eccetera. Le case sono tutte coloratissime, quindi già quello è uno spettacolo. E hanno prezzi anche abbordabili, solo che da via Tosto lì della Madeleine, non so se mi spiego. Anche lì grande accoglienza, poi hanno poche cose da valorizzare, per cui ci danno dentro, e quindi l'aspetto artistico degli scultori del posto, le barche dei pescatori, le maree. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer. Île de la Madeleine. Da non perdere quindi la meraviglia di questo arcipelago fatto di mare blu, case colorate e dune chiare. Certo, magari arrivarci con un aereo un po' più sicuro di quello con cui ha volato Giorgio non sarebbe male. Anche se il mio accompagnatore non manca di farsi amici, vista la sua simpatia, persino nelle situazioni più incredibili. Gli chiedo com'era quindi il rapporto con la gente. Ma sicuramente di curiosità, e poi hanno trovato in me qualcuno che dimostrava di avere piacere di stare con loro, per cui per fortuna un po' di francese lo mastico e li ho sempre intrattenuti, li ho sempre là, ridono con una grande facilità. Io non credo mai di aver detto delle stupidaggini da non ridere, mi sono sempre dato da fare in modo da essere considerato anche dal punto di vista umoristico conviviale, per cui io ho sentito degli schiamazzi incredibili. Sarà che io vengo dal Piemonte, dove siamo tutti un po' falsi cortesi, che prima di lasciarci andare, no, lì proprio si buttano. Non fatichiamo a credere che, quanto a umorismo, ci fosse una bella gara tra Giorgio e gli isolani. Sarà stata anche la musica a unirli, ovviamente. No, ma si capiva che io ero contento di stare lì con loro, anche se quella sera lì in un locale dell'Isola Madeleine c'era un vento paventoso. Io dico, qui va a finire che sta casetta di legno a un certo momento parte, si invola e noi con lei, come nelle favole. Ti dico, un entusiasmo alle stelle. Mancava quello che sparava con la pistola, poi eravamo tutti a posto. Un bel quadretto, non c'è che dire. Un anno c'era anche Charles Trenet, c'era un... quello che... come si chiama? Vabbè, uno famoso, ma sempre vecchie glorie, più che altro, no? Poi ci sono anche i cantanti locali che parlano soprattutto delle loro storie, della conquista, eccetera, eccetera. Anche dei giovani promettentissimi, che io ho contratto anche uno che mi ha fatto fare un testo di una sua canzone. Insomma, c'è un bel fermento. E ricordo che ero in Italia, una giornalista da Montreal, dal Quebec, che mi ha telefonato e diceva: guarda che qui lo Spectrum è sold out. Dico, ti mettevano, certo, no, dico, piccoccia quando ci sono poche persone. Ecco la conferma che qui, in quanto a musica, non si scherza. Ed eccolo il bottino del nostro esploratore. Una bella accoglienza sia come persona che come professionista, mescolata alla visita di luoghi incantevoli tra persone simpatiche. E la simpatia è certamente il miglior lasciapassare di qualsiasi viaggio. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed? Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nel Quebec con Giorgio Conte. Stiamo per finire la nostra visita in Quebec con Giorgio Conte. I quebecchesi sono gente simpatica, come il nostro compagno di viaggio del resto. Infatti non sono mancate situazioni divertenti, come quella di un aereo sul quale lui e i suoi musicisti si sono improvvisati steward, o quando, nell'arcipelago all'Île de la Madeleine, la casetta di legno dove si trovavano per la cena sembrava venisse spazzata via dal vento. Mancano adesso le mie solite domande di rito. Arrivati a questo punto cerco di sollecitare oltremodo i sensi. Sull'udito abbiamo già dato, dal momento che Giorgio è un cantante e il Canada è patria di grandi cantanti. Passiamo ora all'olfatto. Ah, buona questa idea, ma mi viene il profumo un pochino del salmastro. Il profumo del freddo, se il freddo può avere un profumo. Il profumo delle donne canadesi, che è sempre un pochino selvatico, dolciastro, ma anche sa di spezie, insomma. E sono, diciamo che dovessi mettere in un cestino tutti questi profumi, uno starebbero bene insieme. Odore di freddo, mi piace. E a gusto come siamo messi? Che cosa si mangia qui, dove le temperature raggiungono livelli sotto zero pazzeschi? Beh, come ti dico, ci sono i quartieri, ognuno c'ha la sua cucina, quindi se ti viene voglia di bere un brodazzo cinese, vai, oppure se vuoi mangiare un pezzo di carne di quelle robuste, o una patata gigante tagliata in due con dentro del formaggio acido, anche quello te lo puoi fare. Ma ti puoi fare anche dei crostacei, ti puoi fare quelle splendide panaché, quelle cose a tre piani dove ci sono tutti i molluschi possibili e immaginabili. Ti puoi anche fare, se proprio vuoi andare a sentire il sapore dei pionieri, un tazzone di poutine. La poutine è una roba, insomma, da 40 gradi sotto zero, è una specie di vermicelli di formaggio con una salsa rossa che non capisci bene, sembra un po' di essere anche roba messicana, roba indiana, una cosa che mi dicevano mangiavano i taglialegna prima di andare a lavorare. Non faccio taglialegna, faccio i concerti, però ho detto proviamola, effettivamente è una bella bomba calorica. E dopo aver soddisfatto palato e naso, siamo al momento dell'altro classico, se ci sono letture che gli hanno ispirato qualche viaggio. E la risposta, giustamente, mette insieme musica e letteratura, visto che siamo in presenza di un cantante che oggi è qui in veste di scrittore. Ma guarda, ultimamente in un concerto ho fatto una canzone dell'ultimo album che si intitola La Sorpresa ed è un viaggio, un'allegoria della vita. E qualcuno mi ha detto, mi ricorda Conrad. Ma dico, vabbè, insomma, più che viaggiare con Conrad va benissimo, quindi diciamo Conrad. Comandante, per favore, sono stanco di viaggiare, dica un po', navighiamo già da ore lunghe un'eternità. Il contratto parla chiaro, si sapeva la partenza, questo sì, ma l'arrivo è una sorpresa, dove quando non si sa. Ora arriviamo a un test. Voglio giocare con Giorgio a chissà da dove arriva la parola Canada. Che qualcuno desse l'etimologia esatta del Canada dal nome degli indiani, la tenda degli indiani che normalmente noi chiamiamo Tepe, lì si chiamava Canada. Non so se la tenda canadese, poi lì. Altri invece dicono che sono gli spagnoli che sono arrivati a un certo punto e non hanno trovato un tubo e hanno detto Canada, qui non c'è niente, c'è solo ghiaccio. Lascio il beneficio d'inventario per altri suggerimenti etimologici. Aggiungo io un'altra tesi che riporta l'etimo a Canatà, termine usato dagli Irochesi, una delle tribù di nativi, per dire villaggio. Ma torniamo al Quebec, al quale Giorgio, vista l'esperienza così toccante, ha dedicato una poesia. C'è una piccola prefazione. Siamo in Quebec, terra di pionieri, di condizioni esistenziali estreme, di ghiaccio, di tormenti e di neve, là dove le montagne sono alte come le nostre colline, perché il tempo le ha indebolite, ridotte di statura e raggrinzite. Io, lontano dalla mia campagna, non so più chi sono, non so più dove sono, e dove andrò. Questa è la sensazione che io ho avuto proprio a tanti chilometri di distanza in un paesaggio che non conoscevo. E allora ho scritto questa poesia e l'ho intitolata Rimouski, che è un paese dove tutti gli elementi estremi del clima, del luogo si concentrano. Qui il mare è un grande lago pieno di ghiaccio. C'è una specie di passeggiata a mare, ma senza palme. E le cabine non ci sono, e neanche in magazzino. Sono su un punto della terra dove un fiume diventa lago, e un lago diventa mare. E i pesci non sanno bene se sono d'acqua dolce o salata. E neanche il battello che salpa da Batan per Bécomo sa bene per quale acqua è stato costruito. E io chi sono? Uomo fiume o uomo lago? Io chi sono in questo vivere andando verso l'infinito mare? E per finire, da bravo cantautore, alla poesia ha aggiunto una canzone scritta per questo luogo e soprattutto per questa gente, un po' cowboy e un po' francese. Sì, è perché ho voluto omaggiare anche questo popolo simpatico e musicofilo con una canzone in cui parlo di quella frasetta che loro hanno scritto sulle targhe automobilistiche. Se tu leggi una targa e non sai decifrare i numeri, ma se c'è scritto Je me souviens, è quella una targa canadese. Ora Giorgio Conte è in libreria con Un trattore arancio, edito da Cairo, e in tutti i negozi di dischi con il suo ultimo album CQFP, Come quando fuori piove. E la chanson d'amour qui frappe dans mon cœur toujours, veux-tu savoir que reste-t-il de cet amour? Il ne reste que toi et moi, jolies chansons. Vieilles chansons d'amour qui frappent dans mon cœur toujours. Ne me dérange pas, ne me dérange plus.